A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Il rallentamento dell'economia cinese, alla base delle tensioni che stanno investendo i mercati finanziari, è senza dubbio uno degli elementi di forte criticità dell'anno che è appena cominciato. Trema il gigante cinese, trema l'Europa, che ha nella Cina, oltre che negli Stati Uniti, i suoi principali partner commerciali. E quanto mai utile allora fare un passo indietro, fino al 2001, precisamente all'11 dicembre del 2001, data che Pechino celebra ogni anniversario come la vera svolta nelle relazioni economiche e commerciali con il resto del mondo. Quel giorno di dicembre il gigante cinese veniva ammesso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il Sole 24 Ore commentò così la notizia. La lunga marcia della Cina è finita. Dopo 15 anni di estenuanti negoziati, finalmente il gigante asiatico ha fatto il suo ingresso ufficiale nell'Organizzazione del Commercio Mondiale. Pechino dovrà liberalizzare gradualmente la propria economia, ancora in gran parte pianificata e centralizzata, alla concorrenza delle aziende estere, abbattendo gran parte delle attuali barriere tariffarie. In base agli impegni assunti a Doha, dovrà assestare un deciso colpo di forbici anche alle barriere non tariffarie, che finora hanno precluso l'ingresso sul mercato domestico a banche, compagnie assicurative, vettori delle telecomunicazioni stranieri. L'ingresso nell'Organizzazione del Commercio Mondiale consentirà alla Cina di vendere i propri prodotti sui mercati internazionali, sia quelli a basso costo, tessile e abbigliamento, cuoio, scarpe, giocattoli, sia quelli a più alto contenuto tecnologico di cui il paese è diventato ormai un qualificato produttore. Inoltre, spalancherà le sue frontiere agli investimenti esteri. L'ascesa del gigante asiatico è stata impetuosa in questi 15 anni. Nel 2000 contava per il 3,9 dell'export mondiale. Oggi è il primo paese esportatore con il 12,4%. E ora, dopo 15 anni, nel pieno del terremoto finanziario innescato proprio dalla frenata della locomotiva cinese, che fino a qualche tempo fa, lo ricordiamo, correva al ritmo di tassi di incremento del PIL dell'8% annui, si discute se concedere o meno alla Cina lo status di economia di mercato. Bene, diamo il benvenuto al professor Stefano Manzocchi, docente di economia alla LUIS e direttore della LUIS Lab European Economics. Buonasera professore. Buonasera. Allora, ci aiuti un po' a capire meglio l'ascesa, la lunga marcia, come l'abbiamo definita, della Cina. Allora, intanto parliamo di questo appuntamento che la Cina rievoca ogni dicembre. Che importanza ha avuto per la Cina e per il mondo l'ingresso del gigante asiatico nell'Organizzazione Mondiale del Commercio del dicembre del 2001? È un'importanza incredibile. Diciamo che forse si è trattato dell'evento più importante dal punto di vista economico dell'ultima parte del secolo, insieme con la caduta del muro di Berlino e il reingresso di una parte dell'Europa nell'economia di mercato, nell'economia degli scambi internazionali. Un evento fondamentale e decisivo, perché appunto, come ricordava lei, ha consentito alla Cina di diventare nel giro di un quindicennio il primo esportatore mondiale, ma soprattutto la prima economia in termini complessivi, una volta che valutiamo la produzione con i poteri d'acquisto e non con i tassi di cambio correnti. Quindi la rilevanza di questo evento è duplice, direi. Da una parte, la Cina di fatto è diventata un attore decisivo nell'economia planetaria, assumendo di nuovo, se vogliamo, un ruolo che aveva avuto in passato, ma che poi corso dell'Ottocento, con il dominio delle potenze occidentali su quella parte del mondo, si era andato affievolendo, e poi con tutta la vicenda naturalmente dei conflitti interni del Novecento. altro motivo decisivo e importante di questo evento, che lo colloca appunto tra i più rilevanti del passaggio tra la fine del secolo scorso e questo, è il fatto che questo ingresso della Cina nell'Organizzazione del Commercio Internazionale ha comunque costretto quel paese a avvicinarsi, a cominciare ad adottare alcuni standard di comportamento delle economie di mercato. Perché insomma non dimentichiamo che nel corso di questo quindicennio e comunque dopo l'ingresso del WTO la Cina ha dovuto rivedere ad esempio in maniera molto importante le sue barriere tariffarie, ridotte di molto nel tempo. E adesso molti si chiedono, certamente se lo chiederanno i nostri ascoltatori, perché mai una flessione che comunque riporta la Cina a tassi di incremento che sono oltre il 6%, per noi tassi lunari, può sconvolgere i mercati finanziari di mezzo mondo? Questo perché dopo l'ingresso della Cina nell'organizzazione noi abbiamo avuto, come sappiamo, tra il 2007, il 2008 e il 2009 un altro cataclisma, un altro evento sconvolgente che è stata la crisi finanziaria. E quello che è successo è che proprio in quegli anni, ricordiamo che il 2009 è stato l'unico anno dal dopoguerra in cui il commercio internazionale è sceso in valore rispetto all'anno precedente, non era mai successo dal 1945 e non è successo neanche negli anni seguenti, per fortuna. In quegli anni la Cina e gli altri cosiddetti paesi emergenti, i famosi BRICS, hanno assunto il ruolo, se vogliamo, di motore dell'economia globale nel momento in cui gli Stati Uniti e l'Europa si trovavano attanagliati dalla recessione, dalla crisi. Quindi in qualche modo questo rallentamento, che lei ha ragione, di fatto riporta la Cina, come sarà naturale nel tempo, verso tassi di sviluppo più, come dire, consoni a un paese che ormai ha circa mezzo miliardo di cittadini e consumatori che vivono su standard accettabili, diciamo, non tutti ricchi ma comunque benestanti. Questo rallentamento è il rallentamento di un'economia talmente importante ormai che in qualche modo in un'economia mondiale ancora un po' dissestata crea, diciamo, tensioni e anche un po' di preoccupazione. Talmente importante che, appunto, lo dicevamo prima, si sta discutendo se concedere o meno alla Cina lo status di economia di mercato. Ecco, cosa comporterebbe laddove si decidesse in questa direzione, professore? Dunque, la conseguenza principale sarebbe una, sostanzialmente, che sarebbe più complicato e in parte anche molto difficile per gli altri paesi aderenti al WTO organizzare rapidamente delle azioni cosiddette anti-dumping, cioè delle azioni di ritorsione, se vogliamo, nel caso in cui la Cina e gli esportatori cinesi, le aziende cinesi che esportano agli altri paesi, adottino pratiche appunto non esattamente leali di concorrenza. Quindi nel momento in cui a un paese viene concessa lo status di economia di mercato, adottare queste misure di ritorsione è più difficile per gli altri. Non è impossibile, ma è più difficile. Occorre dimostrare in maniera più argomentata, più complessa, che effettivamente si stanno adottando delle pratiche sleali. Quindi è un passaggio effettivamente molto, molto importante. E naturalmente controverso, perché è di questi giorni la notizia che l'Unione Europea ha deciso di aspettare ancora prima di pronunciarsi, gli Stati Uniti stanno facendo lo stesso, stanno aspettando di fatto. E la questione è controversa perché è difficile oggi definire la Cina un'economia di mercato tout court, ma è anche vero che è un'economia molto importante e quindi, come dire, bisogna trattarla con cura in questa fase. Certo, un'ultimissima questione, professore. Il tutto mentre, come sappiamo, ormai da molti mesi si discute tra Europa e Stati Uniti sul nuovo trattato transoceanico, il cosiddetto TTIP. Ecco, quali potrebbero essere le conseguenze di un accordo, laddove mai ci sarà, rispetto a questo, al gigante cinese? Davvero decisivo perché di fatto il Transatlantic Trade and Investment Partnership, cioè l'accordo che dovrebbe essere firmato quest'anno tra Unione Europea e Stati Uniti, non vuole essere soltanto un'ulteriore facilitazione degli scambi, ma vorrebbe proprio fissare delle nuove regole del commercio, degli investimenti e anche parte della finanza su scala atlantica, ma poi estenderli a tutto il globo. Questo naturalmente dai cinesi viene visto come dire, con un po' di preoccupazione. Certo. Qualsiasi grande area del mondo vorrebbe imporre le sue modalità di fare affari, ecco. Quindi firmare questo trattato per l'Europa e gli Stati Uniti è secondo me fondamentale. Con la Cina si tratterà di, come dire, spingerla nella maniera migliore verso l'adozione piano piano di standard che sono il più possibile simili a quelli che la comunità atlantica avrà stabilito. Certo, grazie professore, buona serata, grazie per essere stato con noi.